Che cambia ogni cosa quando noi ti incontriamo. Grazie Signore Gesù. Amen. Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata. Tutta la mia vita ora ti ha. Tiene tutto il mio passato, io lo fido a te, Gesù, re di gloria mio Signore. Tutto in te riposa, la mia mente e il mio cuore, trovo pace in te, Signore. Tu mi dai la gioia, voglio stare insieme a te, non lasciare.